Detto questo, però, occorre rilevare come non basta trascrivere, magari trascrivere bene un documento per pubblicarlo, no? Non basta semplicemente trascrivere un testo per giustificarne l'edizione. Qualche volta noi assistiamo a fenomeni di gran buona volontà, ma che ritengono di aver fatto grande opera meritoria storicamente solo perché hanno copiato un documento e te lo schiaffano in un articolo o in un libro. Questa non è una pubblicazione di un documento. Il documento deve venire da chi lo presenta, da chi lo pubblica, deve venire presentato in piena forma. Il valore dell'edizione sta nella presentazione che si fa del documento che viene presentato. Occorre dunque esplicitare una ampia conoscenza del documento nelle sue caratteristiche individuali. Occorre averlo letto e capito, non basta averlo trascritto, e occorre comunicare agli altri quella comprensione che si è raggiunta. Occorre inquadrarlo nel suo contesto vicino o lontano, prossimo o remoto. Occorre renderlo accessibile mediante un commento. Occorre renderlo facilmente consultabile, soprattutto con indici appropriati e così via. Questo mi sembra il minimo se si pubblica un documento, altrimenti si fa un'operazione puramente fotomeccanica, o pur nella trascrizione, ma insomma non è una opera molto utile dal lato del contributo di studio. Ecco, ed è in questo senso che, come scrivo nella presentazione, ho reso all'autore la vita non molto facile nella preparazione di questa pubblicazione. Lui lo sa molto bene quanto lo ho tormentato, vero, perché queste esigenze venissero sviluppate e realizzate in una maniera almeno passabile. Io adesso qui non pretendo di giudicare la maggiore o minore perfezione della riuscita di questo lavoro, altri vero, sono chiamati a parlarne ed altri giudicheranno in corso di tempo, però ecco la volontà di insomma insistere al massimo perché questo lavoro che ho chiamato di presentazione venisse elaborato almeno in quella misura e in quei termini che la situazione esige, questo posso testimoniare di averlo fatto, e credo che l'autore non me ne vuol male per essere stato certe volte anche un po' tirannico in questo senso. Ecco, su queste cose l'autore avrà poi da aggiungere le sue osservazioni. Finisco dicendo che l'Istituto di Scienze Religiose ha guardato per parecchi anni con vivo interesse a questa pubblicazione che si andava presentando, che si andava preparando. Ecco, e ne sento oggi, quest'anno in modo particolare, anche il vantaggio e l'apporto. Presidente della Regione, siamo onoratissimi di averla con noi in questa occasione, che ci ha permesso anche di ricordare i tempi del mio insegnamento di storia della Chiesa e degli allievi che allora stavano ad ascoltarci. Grazie della presenza. Ecco, dicevo che l'Istituto di Scienze Religiose ha seguito con vivo interesse e vede proprio quest'anno con soddisfazione la comparsa di questo libro. Permettete che faccia il mio riferimento personale: ho appena finito in queste settimane di rielaborare le mie dispense per il corso istituzionale di Scienze Religiose, dove esiste un corso intitolato Storia della Chiesa Locale. Credo sia la prima volta che in Trento viene tematizzato nella sua globalità questo argomento, ed è certo la prima volta che si cerca di mettere insieme una storia della Chiesa locale tridentina, che non è semplicemente la storia dei vescovi, meritoria, Monsignor Decano, Monsignor Costa è presente e ci ricorda questa parte di lavoro, ma la storia della Chiesa, della comunità locale, deve inglobare tanti altri aspetti che sono altrettanto interessanti, ma molto meno indagati, molto meno fatti oggetto di attenzione e che chiamano ad essere conosciuti. Ecco, sono veramente cioè mi sento in profonda sintonia con la comparsa di quest'opera di documentazione nel contesto in funzione di questo sforzo che stiamo compiendo e posso dire anche modestamente apprezzato e seguito con molto più entusiasmo di quello che mi immaginavo da parte degli allievi, vero? Per sviluppare, sia pure sommariamente, come per forza di cose si deve fare in una trattazione scolastica, vero? La tematica della storia della Chiesa locale. L'Istituto di Scienze Religiose vede quest'opera primariamente e soprattutto in questo quadro. Ecco, e intende presentarla anche come un sollecito a camminare ulteriormente in questa direzione. Ho salutato prima la dottoressa Rando, che sta lavorando, vedete che c'è posto anche per i laici in questo capitolo di storia ecclesiastica, anzi credo oggi sia affidato forse più ai laici che non ai sacerdoti che sono presi così fortemente dalle loro incombenze di ministero. Ecco, dico perché proprio questa mi pare anche l'occasione per dire che non è un hortus conclusus questo settore da lasciare esclusivamente ai religiosi, vero? Ai confratelli del padre Bonelli e così via, no? Pur tanto meritevoli, ma è veramente aperto a tutti e dà dimensioni intere ancora da approfondire e da mettere a fuoco, da individuare nel loro vero interesse anche nel gioco di comunione e di passaggio tra le varie componenti della comunità generale che qui vive, aiuta a scoprire dal di dentro molte cose e a interpretare molte situazioni. Ecco, io non so se fatto questo passo l'Istituto di Scienze Religiose potrà o vorrà sviluppare ulteriormente questo tipo di interesse. A me basta in questa occasione ricordare che a noi incombe il compito di incentivarlo, di incoraggiarlo, di promuoverlo questo interesse, aperto poi all'indagine di tutti, può essere l'Istituto Italo-Germanico, può essere la Società Studi Trentini, può essere chi che sia, che però ecco, l'occasione non la vorrei lasciarla sfuggire per dire che in questo settore c'è ancora molta terra da dissodare, c'è ancora molto da lavorare e c'è anche molto materiale da editare, da pubblicare e la pubblicazione di questo genere di fonti certamente non è sempre così semplice come l'è stata per il volume del resto molto contenuto, vero, della visita clesiana che noi abbiamo oggi sul tavolo. Abbiamo però davanti l'altra grande visita del secolo XVI, quella che viene dopo la prima, dopo il concilio, ovvero la visita pastorale del Cardinal Ludovico Madruzzo nel 1579-80, che costituisce una documentazione molto più ampia, molto più rilevante anche sotto il punto di vista della topografia artistica e del patrimonio culturale della nostra regione e per la quale un pensierino a una pubblicazione stralcio o riassuntiva, testuale oppure schematica, ecco, ma credo convenga assolutamente farlo. Tutti sappiamo, e sono lieto proprio da ricordarlo nel passare la parola al professor Prodi, che a proposito delle visite pastorali si muove un interesse direi molto ampio, di larghissimo respiro e che tende veramente a prendere in mano questo materiale interessantissimo e così vario a seconda dei secoli, perché gli atti visitali di prima della Rivoluzione Francese sono molto diversi da quelli dopo la Rivoluzione Francese, sono documentazioni molto, ma proprio per questo anche molto interessanti. Ecco, oppure dico, l'Istituto Italo-Germanico ha già una certa sua iniziativa in questa panoramica delle visite pastorali, soprattutto dell'epoca del Concilio di Trento. Ci sono iniziative anche più grosse in Italia, vero? Il centro diretto dal professor De Rosa. Sono aspetti interessantissimi e che vanno tenuti presenti nello sfondo di qualsiasi intervento anche locale in questo settore. Ecco, accanto a queste però mi si consenta di rappresentare, di tenere viva anche l'istanza che è nel contempo dell'ambiente trentino e della Chiesa di Trento, l'istanza, il punto di vista della Chiesa locale, anche nell'eventuale ricerca circa il modo migliore di editare eventualmente domani una simile documentazione. Vedo che ho già parlato anche troppo, professor Prodi, la parola a lei con rinnovato ringraziamento.